Radio 24 Reportage. Siamo a Patrasso, in Grecia. Patrasso, il limbo. Patrasso, il porto. Patrasso, il non luogo, in cui tutti transitano, nessuno si ferma, ma in cui molti possono rimanere intrappolati mesi, addirittura anni. Qui, a Patrasso, sorge la baraccopoli degli afghani, centinaia di uomini e ragazzi senza documenti e senza diritti, centinaia di fantasmi pronti a tutto pur di cambiare vita. E tra i fantasmi c'è anche chi parla italiano. Ciao Tony. Ciao, buongiorno. Parli molto bene italiano. Non tanto, sì. Dove l'hai imparato? Sono studiato nel mio paese. Da dove vieni? Io sono dell'Afghanistan, del capitale, di Kabul. Kabul? Sì. E hai studiato italiano a Kabul? Sì, sono stato professore di lingua italiana. Quanti anni hai? 18. Da quanto tempo sei qua? Io quasi 5 mesi, quasi 5 mesi, 4 o 5. Da dove sei arrivato? Che strada hai fatto? Sono partito dal mio paese, partito da Pakistan, dopo sono passato del Iran, dopo di quello ho passato da frontiere di Iran fino a Turchia, da Turchia con barca di plastico, fino da un'isola di Grecia. Samos o Mitilini? A Mitilini. Mitilini. Dopo di quello ho preso una nave dritto, arrivata a Patra. Dove vorresti andare? Non so, ancora non so. Quando ti hanno arrestato a Mitilini ti hanno dato un foglio di via? No, con un mese di tempo. No, perché io ho parlato con lingua italiana, ho tirato le bigliette senza passaporto. Per fortuna non è andato. Quindi non sei passato dal campo di detenzione? No, non è andato al centro immigrati di Mitilini, non sono andato. Quindi parlando italiano sì. Te la sei scampata? Sì, sono scappato con lingua italiana, per fortuna. E i greci non si sono accorti che non eri italiano? No, però mi detto che non sei italiano, io non ho mai detto che ha perso il suo passaporto, però voglio andare all'ambasciata d'Italia. Chiamata di ambasciata, un po' sono parlato di lingua italiana, dopo mi ha detto non va bene. Mi ha dato nel biglietto, sono passato a Atene, dopo è arrivato poi a Patras. Hai provato a chiedere asilo politico qui? No. Non vuoi stare qua in Grecia? No, non mi piace. Com'è la situazione qua nel campo? Troppo brutto. Tutti i migranti stanno qui, intanto vedrete che solo per passare d'Italia c'hanno troppe difficoltà. Da Italia entrando dentro camion, sotto di camion, sotto di gommo, intanto morano e scherzano con vita, un rischio. Finita Italia, che come arrivano, per esempio, quasi 8 mesi fa, 9 mesi fa, che uno è uscito a Brindisi fino a Bari, che stava sul terro, che è morto già, stava sotto di gomma, a cascata sull'autostrada. Sempre così la vita, duro, però noi sempre scappiamo perché nel nostro paese, nella nostra situazione, noi siamo d'accordo con legge non sta d'accordo con noi, noi sempre scappiamo dal nostro paese, però per la stessa cosa che noi arriviamo qui, non è che noi arriviamo per un giretto, ogni giorno scappi di mani di poliziotti, la vita è troppo scorta qui, la situazione è troppo brutta. Tu hai provato a infilarti sotto un camion per partire? Ancora no, facevo paura. Ancora no. Pensi che lo farai? Sì, lo faccio, perché voglio entrare in Italia. Cosa fate qua tutto il giorno? Niente, sempre arriviamo qua, sediamo qui, andiamo in giro, in mare. Dopo torniamo dentro a casa. Diciamo casa, sì. Chiamiamola casa? Sì. Viviamo qui, mangiamo, dopo andiamo a letto. Fine domani mattina, tutti i giorni uguali, nessuno non c'era qualche lavoro, qualche cosa, niente. Hai lasciato la tua famiglia in Afghanistan, a Kabul? La mia famiglia, sono rimasto due miei fratelli, da altri, tutti nel 2002, quando è arrivata questa guerra di America con Afghanistan, con i talebani, tutti di là mortano. Adesso non c'è nessuno, solo mi mancano due fratelli. Li senti ogni tanto al telefono? Non tanto, si chiamano sul telefono. Sono più grandi di te? No, più piccolo. Uno c'ha 6, un altro c'ha 14. Cosa gli dici? Cosa gli racconti? Che devo raccontare? Loro non c'hanno papà, mamma, sorella. Che devo dire? Niente. Solo dico che la nostra situazione è troppo brutta. Tutti al mondo devono pensare a un po' di quegli immigrati che vengono. Perché loro non vengono per un pezzettino di pane, per un'altra cosa. Che tutti morano. Di qua fino in Italia rischiano con tutti vita, intanto morano, intanto vedi che arrivano con tante malattie, entrano dentro camion senza pane, senza acqua, manca, non c'hanno niente. La situazione è troppo dura qui, la vita è troppo dura in Grecia, pure in Parza, troppo difficile. E come fate per vivere? Per comprare da mangiare? Per... Intanto che ho già venduto a casa fino a qui. Hai venduto casa? Sì, venduto a casa, arrivato fino a qui, spenderò quei soldi. Non hai mai pensato di tornare a Kabul? No, non devo tornare, non penserò mai di quello. Voglio morire di là, però non voglio tornare. Però non sapevo questa la vita, questa è così. Mi dicono quando entri in Grecia, primo paese di lavoro, pa, sta meglio del nostro paese, però... Chi è che lo diceva? A tutti dicevano, amici miei che stanno in altri paesi, per esempio stanno in Finlandia, Norvegia, Inghilterra. Quando chiamavano mi dicevano la vita è bene qui, trovi bene tutte cose. Gente non ti stanno razzisti, non ti dicono che sei stranieri, quello così. Quello cavolato non ti viene niente, però io in Grecia ho visto che tanti stanno razzisti. Quando ti vedono da lontano ti dicono che sei straniero di merda. Che lavoro vorresti fare in Italia? E studia. Vorresti studiare? Italiano ancora? Ancora italiano, sì. Perché ci manca ancora troppo. Sì. La rotta seguita da Tony è quella percorsa da tanti suoi compagni di viaggio. Uno dei punti di raccolta in Afghanistan per i migranti è la città di Herat. Lì ci sono alcuni locali dove si concentrano i passatori. Facile rintracciarli, tutti sanno chi sono. Basta spargere la voce che si vuole andare in Europa. Si paga e si parte. Alcuni migliaia di euro la tariffa, in autobus o a piedi fino alla frontiera iraniana. Non è una passeggiata. I talebani controllano vaste zone montuose attorno a Herat. Poi bisogna attraversare l'Iran e arrivare fino in Turchia. Alcuni lo hanno fatto passando a piedi il Kurdistan, altri, pochi, volando fino a Istanbul. Una volta in Turchia, il trafficante locale, organizzato come un vero e proprio tour operator, prende i consegni ai migranti e li dirotta verso Izmir e poi verso i punti di partenza lungo la costa come Dogan Bay. Tra una tappa e l'altra, i migranti dormono in case fatiscenti, ammassate in stanze piccolissime, spesso nelle periferie delle città, lontani dai controlli, lontani dalla polizia. E poi, dalle coste turche, canotti e barche di fortuna traghettano i profughi fino alle isolette greche come Mitilini e Samos. Quella più vicina è Samos, che nel punto più prossimo al continente asiatico, pensate, dista 800 metri. Una tratta che spesso viene coperta a nuoto. Altrettanto spesso il guardiacoste greco, o Dimitri, il vecchio pescatore di Samos con cui ho parlato solo 3 mesi prima di recarmi a Patrasso, raccolgono cadaveri dal mare. La traversata dalla Turchia alla piccola isola può costare dai 500 ai 3.000 dollari e permette di entrare in Grecia, in Europa. Ma quel tratto di mare è pericoloso e pattugliato massicciamente dalla polizia greca. Nella sola Samos, 2 guardiacoste con potenti radar monitorano la costa turca quasi 24 ore su 24 e sono capaci di vedere in piena notte, a distanza di centinaia di metri, persino un albatros che si tuffa in mare per pescare. Difficile passare le maglie di quei controlli, eppure arrivano a migliaia ogni anno, perché la polizia turca non fa nulla per fermarli, mi confida un agente dei corpi speciali ellenici. Sono corrotti, pagati dai trafficanti. Ogni notte fanno partire molte barche e noi non riusciamo a intercettarle tutte. Così, il lungo viaggio dall'Asia all'Europa porta gli afghani in Grecia. Nelle isole la maggior parte dei migranti viene fermata, identificata e arrestata perché l'immigrazione irregolare in Grecia è un reato. E rilasciata, dopo 2 o 3 settimane di detenzione, negli appositi campi, con un foglio di via in mano, che nessuno rispetta. Dato che hanno un mese di tempo per lasciare la penisola ellenica, tutti vanno ad Atene e di lì a Patrasso. È qui il vero collo di bottiglia della rotta dell'immigrazione che dall'est porta in Italia. Una rotta destinata ad assumere sempre più importanza, ora che gli accordi con la Libia stanno chiudendo la via del Mediterraneo. La Grecia potrebbe cioè diventare punto d'arrivo anche delle partenze dalla Libia, o come lo è già in alcuni casi, dall'Egitto. E Patrasso, il porto che guarda l'Italia, sempre più una tappa obbligata di questo viaggio. Incontro Eudokia Cazzighianni, 32 anni, insegnante di inglese, attivista di Anti-Racist Patra, un'associazione nata 2 anni fa. Eudokia impegna tutto il suo tempo libero con i profughi afghani, raccoglie aiuti, organizza sit-in e manifestazioni per sensibilizzare la gente di Patrasso e conosce quasi tutti qui nella baraccopoli. Eudokia parla più di una prigione a cielo aperto che di un campo. People who live there are not actually really free to leave the camp since there's always police outside. La gente che vive lì non è proprio libera di lasciare il campo, perché c'è sempre la polizia fuori che controlla dove va e quanto lontano va. La polizia controlla sempre. I profughi stanno qui in media 3, 4 o 5 mesi e poi riescono a muoversi verso l'Italia. Ci sono molti minorenni, a volte di 9 o 10 anni, che viaggiano con i fratelli. A Patrasso ci sono rifugiati da 10, forse anche 15 anni, da tanto tempo. Non posso dire che sia una presenza oramai storica, però se pensiamo da quanto tempo stanno qui, la gente è stata molto paziente. L'unica ragione per cui la cosa sta balzando all'attenzione è perché il campo sta crescendo per dimensioni e nessuno sta facendo nulla. E la gente ha paura, perché capisce che i rifugiati ci saranno sempre. Ha paura che Patrasso sarà una città piena di rifugiati. È una paura stupida. Tutti vedono che è gente disperata e allora pensano che poi ci saranno rapine e delinquenza e crimini e cose così. Però non posso dire che ci siano reazioni razziste. Nessun cittadino di Patrasso li offende a parole o fisicamente quando li vede per strada. Il sentimento dominante è la compassione. Devo ammettere che ci sono stati tanti che hanno chiesto come potevano aiutare, regalando cibi e vestiti, ma hanno preferito farli consegnare noi al campo, evitando qualsiasi contatto con i migranti. Cercano di stare lontani più che possono, con compassione, ma lontani. Ma il punto è che il cibo non è mai abbastanza, i vestiti non sono mai abbastanza, anche se hai 10 magliette o 20 pantaloni, non basteranno mai. Alcuni chiedono asilo politico, molti si fermano al primo intoppo burocratico quando gli chiedono di dare il loro indirizzo di residenza in Grecia. Gli afghani dicono il campo e la risposta è non è un indirizzo il campo, non hanno una residenza, per cui la domanda di asilo non è possibile. Siamo in un punto critico. L'anno scorso i cittadini e i vicini della baraccopoli si lamentavano per la puzza, per la presenza dei migranti, e lo facevano per paura, una paura metafisica, una paura non tangibile. Ma adesso si parla di un campo organizzato, perché si sa che l'Unione Europea dà soldi alla Grecia per fare centri di accoglienza e identificazione per i migranti. Il punto è che se scelgono un posto in città, ci sarà sempre qualcuno che si lamenterà per la presenza del campo. E se anche faranno un campo, come si dice, a 15 chilometri dalla città, non funzionerà perché è troppo lontano dal porto. E la gente che sta qui per il porto, perché vuole andare in Italia. Ci sarà sempre gente che arriverà qui a Patrasso per arrivare in Italia, almeno finché Patrasso sarà un porto con le sue navi e le sue partenze. Ma la gente qui non vuole vedere questa realtà perché è troppo dura, invece dovrebbe ammetterlo e conviverci. And they don't want to face this reality because it's too harsh, because they have to live with it. Questo è Lato B di Patrasso. Questa è Patrasso, il non luogo. Il campo è stato abbattuto dalle ruspe della polizia un mese fa. 150 afghani sono stati arrestati, molti altri sono fuggiti. Altre volte in passato la polizia aveva raso al suolo le baracche, altre volte i migranti le avevano ricostruite. Le voci che avete ascoltato? Di alcuni di loro non so più nulla, ne ho perse le tracce. Ahmad, Yassir, Mohamed potrebbero essere in Italia, o già in Francia, o in Inghilterra. Oppure rimandati in Grecia, secondo la legislazione europea, Regolamento Dublino 2, che consente ai paesi della UE di rimandare i migranti irregolari nel primo paese che li ha accolti e identificati. Alcuni dei loro cellulari con numero greco suonano muti da mesi. Ahmad, Yassir, Mohamed potrebbero essere morti, come alcuni di loro lucidamente prefiguravano, oppure rimpatriati. Altri, come Khaled, uno tutto entusiasmo e dall'ottimo inglese e che faceva da vero e proprio mediatore culturale tra i migranti e le associazioni, era ancora nella baraccopoli fino a un mese fa e ancora, la sera, volgeva lo sguardo al porto, sognando di andarsene.